Thank you. Sagare babani bagare dali bagare sagare babani bagare ma bagare dali bagare ma bagare dali bagare sagare ma bagare dali bagare sagare ma mama gare sare pani sagare pa mama gare sare pani sagare pa pani sa mama gare sa mama gare sa mama gare sa ni pa mama gare sa sagare pa pani sagare pa gare ni pa sa Thank you.